onde di probabilità danzano tra spazi infiniti e tempi sfumati, dove la materia è solo un'illusione, luce che si sente bella come onda e particella. Nel regno dell'infinitamente piccolo, dove tutto è casuale, si intrecciano le trame dell'universo, fisica, musica e caso, e la realtà ha un volto incerto in un mondo di superposizioni. La misura determina il reale e le particelle saltano in gallerie di potenziale. Osservo il mondo con occhi attenti, mi perdo nello spazio vuoto, dove la materia si dissolve in energia e la realtà è solo un'onda tra onde di probabilità. E tutto questo è realtà nell'infinitamente piccolo, che è infinitamente grande. Si cela il segreto dell'universo, dove la mente si apre.